Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salvadanaio, ben ritrovati. Le novità introdotte dal decreto lavoro varato dal governo a fine giugno, il decreto legge, il pacchetto Letta, il pacchetto Giovannini. Le novità, dicevamo, toccano diversi aspetti e andranno a condizionare la situazione di categorie molto diverse di lavoratori. Gli accordi tra azienda e sindacati diventano molto più influenti nella stipula di contratti definiti a causali, cioè senza l'indicazione dei motivi che giustificano il lavoro a tempo, ma anche nella gestione flessibile delle pause tra un contratto a termine scaduto e quello successivo. Viene introdotto un nuovo vincolo per il cosiddetto lavoro a chiamata, mentre viene esteso il ricorso ai voucher, non più riferiti ad attività meramente occasionali. Salva Danaio fa il punto delle novità in un nuovo martedì del lavoro, come sempre con i nostri esperti ormai di riferimento sull'argomento, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Deborah. E buongiorno al dottor Alessandro Rottaporta, consulente del lavoro. Entrambi sono tra le firme più ricorrenti per il Sole 24 Ore su questi argomenti. Rottaporta, buongiorno e ben ritrovato anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Abbiamo deciso di non mandarvi in ferie fino all'ultimo perché cercheremo di spiegare quanto più possibile tutte le novità introdotte dal pacchetto Giovannini. Naturalmente gli ascoltatori possono farci tutte le domande del caso all'800 24 0024, ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it ed è già pronto peraltro un quesito di un'ascoltatrice, Carolina, poi la sentiremo, vi proporrò appunto la sua mail di poco fa. Ci potete scrivere anche su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Allora, la vostra situazione lavorativa in questo momento rientra in una di queste categorie? Come vedete questi cambiamenti? Vi sono chiari? Come vi toccano? Prima di tutto questo, la borsa. È una giornata piena di smalto in borsa questa mattina in Europa, lo è stata anche a metà, parzialmente anche per l'Asia. Il Nikkei ha chiuso con un rialzo del 2,58%, l'Hang Seng di Hong Kong ha avuto un rialzo di 0,5%, male invece gli altri indici asiatici. Ma cosa succede in Europa? Perché tutto questo fermento? Perché Elvemash non si ferma, il gruppo francese del lusso, uno dei colossi mondiali, continua a fare shopping in Italia dopo aver acquistato la pasticceria Cova di via Monte Napoleone pochi giorni fa, adesso mette le mani su un altro colosso del lusso, invece, quindi su una società appunto che opera nello stesso settore, e parliamo appunto del cashmere di Loro Piana, un vero e proprio blitz comunicato ieri sera con cui Elvemash dalla Francia acquisisce l'80% del gruppo piemontese. E questa notizia stamattina fa bene a tutto il settore. A Piazza Affari Salvatore Ferragamo guadagna l'1,6%, il listino adesso in rialzo dello 0,43%, e anche Toz in rialzo dell'1,22%. Ma ci sono molti titoli piuttosto positivi, Fiat più 1,62%, ancora per le notizie relative all'intervento, all'intento di arrivare al 100% di Chrysler, e questo, dicono gli operatori, sarà uno dei temi principali che caratterizzerà l'andamento dei mercati per tutta l'estate. In nuovo recupero di 1,5% Monte dei Paschi, Tenaris più 1,30%, Telecom più 1,25%. In discesa invece abbiamo Mediaset che continua a perdere terreno, meno 2,76%, ma il titolo è in assoluto tra i protagonisti positivi dall'inizio dell'anno della borsa. STM meno 1,57, Buzzi Unicem meno 0,8. Non abbiamo dato le altre piazze europee, Parigi in salita dello 0,6%, Francoforte in rialzo di 1 punto, Londra più 0,9, euro su dollaro a 1,28,63, e tra l'altro continua ancora anche la gara su RCS. Direi che per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi, ritorniamo nel nostro martedì del lavoro al decreto lavoro varato di recente con tutte le novità relative alla cosiddetta flessibilità in entrata. Precario il mondo, flessibile la terra che sta pestando, atipica la notte che sta arrivando. Non sono cambiamenti da poco quelli introdotti alla normativa sul lavoro dall'ultimo decreto legge varato dal governo Letta. Agendo con modifiche apparentemente minime, il pacchetto va a scardinare alcuni ingranaggi chiave, attuando in molte situazioni, di fatto, una marcia indietro rispetto alle indicazioni dell'ultima riforma Fornero. È il caso, ad esempio, delle regole sulla casualità dei contratti a termine. Con la riforma, il datore di lavoro era tenuto a esplicitare la causa per cui il dipendente veniva assunto a tempo determinato e non in modo stabile. Questo obbligo a dare spiegazioni poteva essere evitato soltanto per il primo contratto stipulato e per una durata massima di 12 mesi. Con il nuovo decreto non solo viene abrogato il divieto di prorogare un contratto che non specifica la causale, ma si dà la possibilità, in fase di contrattazione tra aziende e sindacato, di individuare ipotesi alternative dove non è affatto necessario indicare la causale. Vengono anche ristabiliti tempi più brevi di intervallo tra un contratto a tempo e l'altro, da 10 a 20 giorni, contro i 60 e 90 imposti dalla Fornero. E inoltre, anche in questo caso, si dà la possibilità ai contratti nazionali, e in caso di attività stagionali, di derogare, arrivando addirittura ad azzerare questo intervallo. Precario il mondo, precario il mondo. 800240024, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Intanto vi anticipo che domani con il Sole 24 Ore viene pubblicato un dossier di 16 pagine proprio per capire il nuovo lavoro, come cambia il lavoro per i giovani, quali saranno i nuovi contratti a termine, la normativa per le collaborazioni, ma anche il tema dei controlli verrà analizzato con le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Da chi cominciamo? Avvocato Falasca, volevo cominciare con lei per capire intanto se aspettiamo misure attuative su queste novità, quelle di cui parliamo questa mattina, o sono già tutte operative, oppure manca ancora qualche precisazione procedurale. Avvocato Falasca? Dove è finito? Non lo sentiamo? Andiamo ad Alessandro. Eccoci qua. Come mai si era allontanato? No, avevo messo muto al telefono per non disturbare. Va bene, d'accordo, perché già allora, stavo dando la colpa a Carmelo Lauricella e invece lo vedevo presentissimo, era anche un po' preoccupato perché temeva che il mixer non funzionasse. Allora, ha capito la domanda? Okay. Sì, capito benissimo, ma le modifiche sono tutte immediatamente operative, forse solo quella sulla causale del contratto a termine per la parte dei contratti collettivi richiederà un passaggio, però sono modifiche che, diciamo, da quando sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale diventano efficaci. Io mi permetto di dire una cosa prima che entriamo nello specifico, che dalla scheda, dall'ottima scheda come di consueto che avete fatto, emerge un fatto importante, cioè che siamo dentro un'emergenza normativa, troppe regole, troppo complesse, troppo prolisse, e purtroppo questo decreto, questa emergenza non la va a risolvere, ma segue quel tracciato, perché, diciamo, siamo inondati di regole. Domani ci sarà lo speciale del Sole di 16 pagine, che sarà solo l'inizio di una serie di speciali che usciranno per spiegare l'ennesimo, diciamo, provvedimento complicatissimo e lunghissimo. Quindi da questo punto di vista è un po' sconfortante anche quest'ultima riforma, no, al di là del merito delle questioni, che alcune sono anche interessanti, certo, perché poi c'è l'apprendistato, che è un altro sarà oggetto di un'altra puntata, Falasca, ecco. Non anticipiamo niente, oggi atteniamoci appunto ai quattro punti che ci siamo fissati e che sono appunto molto importanti. Allora, per concretizzare immediatamente il nostro programma, perché il nostro obiettivo è sempre quello, vorrei sentire un'ascoltatrice che è Laura, che ci aveva scritto una bella mail su Facebook e ci descriveva appunto la situazione nella quale si trova e vorrebbe capire come poterla risolvere. Laura, buongiorno, ci chiama da Ferrara, se non sbaglio, vero? Sì, vi chiamo da Ferrara, buongiorno a voi e grazie per avermi dato la possibilità di portare la mia esperienza. Allora, io lavoro nel settore dei rilevamenti di mercato, sono un operatore per appunto rilevamento dati quanti qualitativi e per censimenti di vario tipo, sempre per il commercio. E, ho svolto questa attività fino al 31 dicembre con contratto di Cocopro e chiaramente con la riforma Fornero è stato impossibile per l'azienda continuare la proroga di questo tipo di contrattualistica e hanno disposto di stabilizzare tutti i dipendenti e tutti gli ex collaboratori. Che in apparenza poteva essere una buona notizia, no? Sarebbe stata bellissima, se non estremamente vessatoria sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello umano, aggiungerei, perché è a tratti veramente umiliante. Che tipo? Allora, ma quindi no, adesso a parte che ci racconterà che tipo di contratto le è stato proposto, se lei è stata d'accordo, se lo ha firmato o meno, ma è stata così diversa la situazione pre-stabilizzazione, post-stabilizzazione anche nella relazione umana? Abbiamo perso nettamente il 50% e forse anche di più di quello che era il nostro salario medio come CocoPro, perché con la retribuzione oraria al settimo livello del CCNL, ovvero 4,90 euro, siamo, mi concede il termine, condannati ai 400-500 euro mensili, perché i contratti che hanno previsto sono praticamente tutti part time per poter usufruire anche di una forma di banca ore, così da spalmare le eventuali ore in più che facciamo durante l'anno in permessi e ferie varie. E, appunto, il nostro livello è stato il settimo, perché non, praticamente hanno usufruito di una deroga derivante da un accordo con un'associazione di marketing operativo della quale non so se posso fare il nome, me lo dica lei. No, ma a parte questo, mi interessava anche capire, ecco, tutte le altre conseguenze che ha. Le conseguenze sono che io continuo ad avere anche dei costi derivati da questa attività che non mi vengono pagati. Perché lei si sposta in macchina, deve raggiungere i posti dove fare le rilevazioni. Io sono privato, sì, giornalmente faccio anche 200 km. Con il CocoPro prevedevano dei rimborsi forfettari di 35-70 euro, che però bene o male venivano compensati da quanto veniva pagata l'attività, per cui non ponevamo la questione di mobilitarci, perché comunque si parlava che ci sarebbero poi state le stabilizzazioni eccetera eccetera, per cui abbiamo voluto dare fiducia anche all'azienda e non creare magari problematiche in un periodo nel quale ce ne sono già anche tanti. Va bene, Laura, guardi, fatto, ecco, le ho dato molto spazio, vorrei andare alla conclusione perché così facciamo subito commentare il suo caso. La conclusione è che praticamente noi dipendenti siamo costretti ad uno stipendio di 400-500 euro mensili, dobbiamo utilizzare il nostro mezzo privato, dobbiamo avere una connessione internet, dobbiamo avere una linea telefonica fissa, dobbiamo essere preparati all'uso del computer ed avere i nostri... Lei vorrebbe rifiutarsi di fare qualcosa nella sostanza? Io vorrei rifiutare di fare delle attività, e intanto una cosa solo mi conceda: abbiamo avuto la fortuna del sindacato Filcams che non ha firmato la deroga e sta facendo di tutto per aiutarci, ma il percorso sarà lungo e non è colpa della Filcams. La colpa per me è delle istituzioni che si sono chiuse, che si sono messe la benda di fronte a queste stabilizzazioni e non hanno fatto i controlli che avrebbero dovuto fare e che erano tenuti loro a fare. Laura, la ringrazio molto. No, solo un'ultima cosa mi sono le ho dato, tempo. Guardi, tanto tempo. Gratuita dipende dal fatto che ce ne stanno assegnando altre che non sono previste nel contratto e che ce le pagano solo se i negozianti ci faranno entrare in negozio. Ho capito. Ma in quel momento noi ci saremmo già andati. Certamente, e quindi diciamo che con tutti questi chilometri che fa. Falasca, molto bene. Ah, vabbè, allora io volevo andare a Rotaporta, andiamo a Falasca, ma sicuramente c'è materiale per entrambi per commentare questo caso assolutamente interessante. Anche qui stiamo sfiorando gli argomenti di oggi da CocoPro. L'ascoltatrice, avvocato Falasca, ha stabilizzato il suo contratto. Questo tema l'avevamo già posto in passato con le stabilizzazioni appunto previste dalla riforma Fornero, ed effettivamente le facoltà che sono date alle aziende per poter stabilizzare i dipendenti sono queste di chiaramente fare una marcia indietro enorme nel contratto che viene stipulato con queste persone. Ma guardi, noi ne parlavamo proprio dei contratti di prossimità, allora io dico che è un po', mi permetto di dire, un po' paradossale l'intervento dell'ascoltatrice, perché in sintesi si lamenta del fatto che passando da CocoPro a dipendente il netto è minore, e questo è vero, è un grosso problema. È decurtato del 50%. Lista, esatto, però nella lista, fatemi dire, nella lista delle lamentele viene molto molto dopo, perché stiamo parlando della situazione in cui prima c'era un contratto usato irregolarmente in suo danno, perché quello in più che le viene sottratto è anche contribuzione previdenziale, è anche esattamente. Sono tutele maggiori. Io francamente non lo seguo proprio quel discorso. Poi per carità, tutto è migliorabile, ma non c'erano controlli da fare lì. Lì ci sono aziende che hanno deciso responsabilmente di assumere ex collaboratori coordinati che probabilmente, non ho la certezza, non erano tanto in regola. Il netto in tasca che ne viene sicuramente di meno perché è stato usato un accordo in deroga, ma questo è quello che passa. Vabbè, questo può anche essere condivisibile, Avvocato certo, Falasca, c'è però certo, tutto l'aspetto che lei descrive, che in realtà fa un lavoro per il quale è costretta a spostarsi, magari quello poteva essere anche oggetto di una contrattazione un po' più rigida da parte del sindacato che rappresentava questi lavoratori, perché i rimborsi forfettari credo che non coprano neanche, cioè voglio dire 200 km al giorno, 400 euro mensili che l'azienda le riconosce? Se si bruciano certo, in tre giorni. Ecco. Esatto. Sicuramente io adesso non volevo dare l'idea che non sia serio, capisco la lamentela, ci sono, però l'operazione in sé è un'operazione virtuosa, non sbagliata, cioè trasformare le collaborazioni a progetti di lavoro dipendente è una cosa che andrebbe incentivata. Poi certo, perché diciamo francamente non credo che prima gli pagassero questi rimborsi e oggi no. Io credo che il peso vero siano le tasse e fisco, cioè il famoso cuneo fiscale che se fosse un po' più contenuto appunto forse magari questo stipendio poteva diventare esatto, almeno il 40% di quello che percepiva quando era in un regime a Coco Pro. Rotta Porta, lei che ne pensa di questo caso? Concordo con l'osservazione dell'avvocato Falasca, nel senso che comunque la stabilizzazione va vista di buon occhio, poi bisognerebbe scendere nei dettagli, anche perché sicuramente qui si parla di un contratto di prossimità, quindi un contratto sicuramente in deroga al famoso articolo 8 della manovra estiva di due anni fa, e quindi anche lì bisognerebbe scendere un attimino nei dettagli, anche sul discorso, visto che c'è una sigla che non ha firmato, bisognerebbe scendere proprio nei dettagli anche della rappresentanza, vedere se effettivamente questo accordo è poi valido nei confronti di tutto il personale interessato in azienda, cioè bisognerebbe avere forse qualche elemento in più per dare un giudizio certo, complessivo. Adesso però non vorrei far arrabbiare Laura per la posizione che abbiamo preso, naturalmente se lei avrà la pazienza di scriverci, anche se in realtà ci ha già scritto su Facebook, ma se volesse ancora descriverci meglio il suo caso magari lo sottoporremo appunto ai nostri esperti per un commento più articolato, proprio per una magari consulenza un po' più articolata. Detto questo, appunto, la situazione è mista, eterogenea e molto complessa su molti fronti. Volevo leggervi anche la mail che ci ha mandato poco fa Carolina, che è una nostra ascoltatrice, che vorrebbe assumere una babysitter e vuole sapere se può fare un contratto a termine delle tipologie delle quali parliamo questa mattina per solo 8 ore settimanali, oppure quale sarebbe il minimo di ore, perché io non ho bisogno più di una cifra aggiuntiva rispetto a quelle. La persona individuata per questa assunzione è una persona in mobilità fino a settembre, ha 50 anni. Carolina chiede se può dedurre anche dalle tasse questa spesa e in quale misura. La Rotta Porta, 8 ore settimanali, potrebbe essere retribuita questa persona con i voucher, e se è in mobilità in qualche maniera questa circostanza condiziona questa potenziale assunzione? Allora dobbiamo distinguere tra le due possibilità. Allora, il voucher sostanzialmente con l'intervento del decreto occupazione, quindi il decreto 76 del 28 giugno 2013, quindi 10 giorni fa, è stato definitivamente sdoganato anche dal punto di vista normativo. Prima avevamo una dizione che comunque sia era quella della riforma del lavoro, che citava comunque queste attività come attività di carattere meramente occasionale. Questa parte è stata eliminata dal testo normativo ed è un intervento di sostanza, perché fuga ogni dubbio sulla bontà di questo tipo di collaborazioni. Quindi nel momento in cui rispettano i requisiti reddituali, poi magari li elenchiamo, e quindi nel caso del lavoro domestico possono essere spesi nei confronti del lavoratore un massimo di 5.000 euro, quindi il lavoratore ha un plafond di 5.000 euro netti che può incassare tramite i voucher. Adesso, se nel caso dell'ascoltatore, essendo un cassa integrato, mi sembra quindi un percettore di mobilità sì, questo limite scende a 3.000, però il voucher è utilizzabile senza nessun problema. Diverso è il rapporto di quindi lavoro. Quindi la soglia dei 5.000 euro riguarda il reddito cumulato chiaramente dall'eventuale persona che viene assunta e non riguarda solamente un contratto, cioè non riguarda l'eventuale retribuzione che le darebbe la persona che la assume come babysitter. No, riguarda la totalità dei committenti nell'arco di un anno solare, quindi il singolo lavoratore non può totalizzare più di quel compenso lì tramite voucher in ciascun anno solare. Nel caso dell'ascoltatore, visto che il lavoratore mi sembra di capire è un percettore di sussidio, quel limite scende a 3.000 e però in capo al lavoratore non fa cumulo fiscale e non decurta l'indennità di mobilità, per cui potrebbe essere vantaggioso per entrambi. Diversa cosa è invece il rapporto di lavoro, dove c'è un vincolo di subordinazione, dove c'è un altro, diciamo, impianto sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista contributivo. Però il voucher, se sta, ripeto, in questo parametro, nel caso specifico, certo, 3.000, può essere una valida soluzione che a questo punto qui, con la modifica legislativa di cui parlavamo, è più facile. Non è più contestabile, perché prima c'era un'interpretazione difforme tra l'INPS e il Ministero del Lavoro, è chiaro a questo punto l'applicazione. Allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo la nostra prima pausa. Abbiamo veramente cominciato un po' a fatica con un caso molto interessante che riguarda un gruppo di lavoratori di Ferrara, un'ascoltatrice ce l'ha raccontato, e naturalmente ci stiamo prendendo anche un po' di commenti non tanto carini da parte di ascoltatori, perché qualcuno ci manda anche a quel paese e dice, insomma, 500 euro prendeteli voi se ci riuscite a campare. Il tema non è questo, è chiaro che nessuno riesce a vivere con 500 euro al mese, il tema è capire se questo stipendio che questa persona prende adesso al netto, prima praticamente poteva essere calcolato in maniera diversa, nel senso che prima probabilmente prendeva una cifra più alta ma l'azienda non pagava contributi e non aveva tutta una serie di altre cose nella sostanza, per cui il tema è un po' questo che va capito. Poi mi rendo conto che una stabilizzazione di questo tipo è assolutamente insoddisfacente, perché la dignità di un lavoratore va assolutamente in fumo con una cifra del genere. Chi ci può campare con 500 euro? Questo mi sembra scontato e assodato. Il tema del quale stavamo parlando è un pochino diverso. Salva Danaio. Precario il mondo, flessibile la terra che sta pestando, atipica la notte che sta arrivando. Con il decreto lavoro, novità in arrivo per i contratti a chiamata, definiti anche intermittenti, che prevedono un rapporto di lavoro subordinato in cui però il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di tipo discontinuo, ad esempio per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno. Le ultime novità introdotte hanno l'obiettivo di limitarne l'uso, facendo in modo che il datore sia tenuto a dare maggiori garanzie al dipendente di cui si avvale con una certa, seppur discontinua, frequenza. Si è scelto per questo motivo di fissare un tetto massimo. La prestazione non potrà superare, nel suo insieme, i 400 giorni nell'arco di 3 anni solari, pena la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato. La flessibilità in entrata, il tema del nostro martedì del lavoro. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Avvocato Falasca, ritorno da lei. Quale può essere tipicamente un esempio di lavoro che ha come base un contratto a chiamata? Così, tanto per farlo capire ai suoi ascoltatori, tipicamente quale può essere? Può essere, ad esempio, lo studente che nel weekend va a fare il cassiere presso l'ipermercato, quello può essere un caso tipico. Giustamente su questo punto il decreto Letta mette un limite, perché c'era un po' il rischio che se ne abusasse, no? Perché qual è il punto critico? Che ti chiamo solo quando mi servi e quindi poi non ho l'obbligo di dare le ferie, le pause e quant'altro. Invece mettere un limite quantitativo facile da rispettare è una garanzia per tutti, però appunto pure nel commercio, in molti, sono quelle attività in cui magari c'è un picco in un momento della settimana o del mese, è sicuramente un contratto utile, certo. Non ci risolve i problemi del mercato del lavoro. No, allora le faccio sentire cosa è successo a Filippo da Bergamo, che aveva un contratto a progetto, adesso è diventato contratto a chiamata. Filippo, buongiorno, con quali conseguenze questa trasformazione? Buongiorno. Ci dica. Dunque, la situazione è questa. Noi fino a 3 mesi fa, prima della riforma di cui avete parlato voi, avevamo un lavoro organizzato, diciamo, nello stesso modo in cui oggi. Praticamente noi lavoriamo dalle 9 alle 11 ore al giorno per svolgere il nostro lavoro e invece abbiamo un contratto a chiamata, dove il contratto prevede esclusivamente soltanto 25 ore al mese. Che tipo di settore opera, Filippo, posso chiederlo? Sì, sono controlli, letture del Enel, energia elettrica, gas, compagnia bella, acqua, compagnia bella. Perfetto, le rilevazioni di questo tipo, sì. Oltretutto, come la signora di Ferrara, tutte le spese sono a nostro carico, della vettura. No, mi chiedo come in questo lavoro possa avere la necessità di essere regolamentato da un contratto a chiamata, perché voglio dire è abbastanza... Me lo chiedo anch'io, ma è quello che non è che c'è un picco di lettura, infatti. Vabbè, Filippo, vorrei sapere come possono fare una cosa di questo tipo, e in seconda battuta vorrei chiedere agli esperti che tipo, siccome io ho 60 anni e la Fornero mi giudica giovane, devo lavorare ancora 4-5 anni, in che modo vengono, diciamo, tra virgolette caricate queste ore, 25 ore al mese, a livello INPS? Cioè, voglio dire, le mie settimane dove vanno a finire, che abbiamo visto che viene considerato in settimane tutta la situazione? E ultima battuta, cosa posso fare io contro l'azienda? Filippo, mamma mia, stamattina che casi estremi. Rottapanò, comunque la ringrazio per la sua testimonianza, così ancora i limiti della legislazione più o meno recente li stiamo mettendo tutti quanti a nudo, mi sembra. Avvocato avvocato, io vi scambio anche un po' professionalmente, volevo andare ad Alessandro Rottaporta. Com'è possibile che una società del gas, una utility, possa, per un lavoro di questo tipo, che comunque credo sia abbastanza ricorrente, perché periodicamente si fanno le letture dei contatori del gas e della luce, anche se per la verità adesso c'è anche il la telerilevazione da lontano per molte società, e le sembra regolamentato correttamente questo rapporto di lavoro? Ma sicuramente no, partiamo velocemente, ma abbiamo piani diversi per questo problema che ci ha prospettato l'ascoltatore. Intanto una considerazione velocissima, cioè questo è l'effetto distorsivo di una norma, quindi la riforma Fornero, che per certi punti è stata gestita malissimo, perché anche il problema dell'ascoltatrice che ci ha rappresentato in precedenza, che è simile anche per quest'ultimo caso, cioè la norma purtroppo, andando da un certo punto di vista giustamente a colpire quegli abusi di utilizzo di contratti in modo non genuino, però non ha previsto il percorso per arrivare, tra virgolette, a forme di utilizzo legale, quindi cioè, qui nascono le distorsioni, quindi i contratti in deroga, le contrattazioni e poi l'aver bypassato il problema ingigantendola, ecco, questo è stato l'effetto. Ora, venendo al caso specifico, il contratto a chiamata non si può stipulare sempre, cioè si può stipulare laddove i contratti collettivi nazionali lo prevedano e non ci sono praticamente casistiche, perché la contrattazione nazionale non l'ha mai disciplinato, quindi non è sicuramente il caso dell'ascoltatore. Si può utilizzare per determinati soggetti, quindi over 55, e potrebbe essere il caso dell'ascoltatore, ma magari non del complesso aziendale, quindi, e non vedo neanche quell'attività che ci ha elencato l'ascoltatore tra quelle ricomprese in una tabella a cui fa riferimento la norma, che è una tabella vecchissima del 1923 delle attività discontinue, e quelle sono le ipotesi in cui si può fare il contratto a chiamata, quindi non si può stipulare sempre, quindi secondo me, così a occhio, sicuramente un'applicazione non legittima del contratto a chiamata, e ovviamente questo incide sulla maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive del TFR e anche sull'accredito contributivo. Del contributivo, certo, era quello che interessa a Filippo, visto che tra l'altro sicuramente avrà una penalizzazione pesante, perché comunque sia 25 ore al mese, se non mi ricordo male. Sì, che lui se ne fa in due giorni praticamente, che sì, questo è proprio dell'assurdo. Cioè lì la difesa da parte del lavoratore è rivolgersi a un sindacato o a un legale come l'avvocato Falasca. Ah, cioè lei ne vuole sentir parlare di questo. E andare a impugnare ovviamente il contratto, perché comunque sia sicuramente l'applicazione non è corretta. Incredibile. Vi faccio sentire poi avvocato Falasca, torno da lei, che sono sicura avrà delle cartucce in canna appunto anche per questo caso. Volevo anche metterci insieme la situazione di un musicista, lo sento prima degli altri perché ci ha scritto messaggi, mail, adesso vuole intervenire telefonicamente, quindi al volo abbiamo pescato Flavio da Como, un insegnante di musica. Flavio, buongiorno. Buongiorno, dunque allora le spiego brevemente la mia situazione. Dunque, io insegno da tanti anni in una scuola, insegno più o meno 3-4 giorni alla settimana, più o meno 4 ore al giorno e, ho sempre con contratti a progetto da ottobre a giugno. Ora con la legge Fornero naturalmente questa cosa non è più possibile, ma non è neanche possibile aprire la partita IVA, perché aprendo la partita IVA non agevolata, perché ho una postazione, così mi è stato detto, sì, e non coprirei le spese di gestione. La scuola non mi può assumere perché naturalmente non è a fine di lucro e non coprirebbe tutto l'importo appunto dell'assunzione. E come uscire da questa situazione? Poi mi sembra di aver sentito adesso 300 giorni in 3 anni o 300. Adesso riprecisiamo. Quante ore a settimana lavora in questa scuola, Flavio? Più o meno sono 15, dalle 12 alle 15, mm-hmm, ecco, dipende dagli anni. Mm-hmm. E però appunto probabilmente supero quei 300. La sua, come dire, posso chiedere la retribuzione annuale lorda quanto ammonta per un incarico di questo tipo? Dipende lì, cioè dipende proprio dalle iscritti ore. E dalle ore, cioè diciamo in linea di massima dalle 700 alle 800 euro al mese netti. Grazie Flavio. Salva Danaio. Laureata precaria con lo zaino pieno. Voucher lavoro e Coco Pro? Queste tipologie di contratti flessibili diventano più facili da utilizzare con l'introduzione dell'ultimo decreto legge in materia di lavoro. Per quanto riguarda la prima, i ticket che permettono di retribuire regolarmente prestazioni lavorative anche di poche ore, viene eliminata una frase dal testo della norma, un rapido tratto di bianchetto che non ha un significato da poco. Il voucher non viene più vincolato infatti alla definizione di attività meramente occasionale e lo stesso vale anche per chi lavora a progetto. Per questi ultimi si prevede inoltre che il progetto non possa comportare lo svolgimento di compiti sia esecutivi che ripetitivi, mentre la legge 92 attivava il divieto anche in presenza di una soltanto di queste eventualità. A vederle così possono sembrare variazioni di poche virgole, ma cosa cambierà nel concreto per chi lavora o potrebbe essere assunto con questi contratti? Già, infatti, non è chiaro neanche a tanti lavoratori che naturalmente ricevono queste proposte di lavoro, anche perché la norma da tempo cambia continuamente i termini di questi contratti. Avvocato Falasca, intanto una prima risposta al nostro amico musicista, Flavio. Come può essere disciplinato il suo rapporto di lavoro con questa scuola? Comunque un rapporto continuo, ricorrente appunto da anni, e che però non può essere stabilizzato in questo caso. Ma guardi, diciamo, forse nei 400 giorni del triennio lui ci starebbe, però mai suggerirei un intermittente. In quel caso io farei un part time verticale in cui si prevedono i 2 giorni a settimana e siamo a posto. Sì, io ma l'azienda non vuole assumere la scuola. Ma vede, il problema è proprio questo. Infatti mi spiace che sia stata fuorviata la mia risposta di prima. Io volevo dire questo, diciamo, intanto cerchiamo di far capire alle aziende che devono assumere, perché è importante, perché abbiamo un mercato del lavoro oggi, uso un termine forte, che è traccione da questo punto di vista, cioè è una fuga continua dalle proprie responsabilità, nessuno, cioè c'è un tasso di infedeltà contrattuale che fa spavento nel nostro paese. Allora cerchiamo intanto di usare per bene i contratti. Qui l'azienda cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare quello che le ho appena detto, cioè o un'assunzione a tempo indeterminato con il part time verticale o al limite un intermittente, anche se intermittente non è quel rapporto caratterizzato da una sua stabilità, per cui sarebbe comunque forzato. Si scappa dal lavoro subordinato perché siamo fatti così e anche perché poi ci mette di suo l'ordinamento, perché costa troppo, e l'esempio dell'ascoltatrice, ci torno volentieri per spiegarmi meglio, è questo, cioè lei probabilmente a parità di lordo il netto che le arriva in busta paga è molto più basso. Certo, quindi, infatti, perché il problema avrei dovuto fare questa domanda all'ascoltatrice: qual era la cifra complessiva che prendeva prima della stabilizzazione effettivamente, come la distribuiva poi personalmente, magari ci si pagava la previdenza la sua previdenza praticamente, magari andava oppure no. Poi c'è questo problema delle regole, no? Quanti contratti abbiamo nominato? 4, 5, 6, 7, 8, questo continuo slalom tra decine e decine di regole, per cui è veramente pone il nostro mercato del lavoro in condizioni per certi versi umilianti. Cioè, qui va capito proprio quello che dicevo all'inizio, che c'è un'emergenza. L'emergenza, bisogna creare le condizioni perché le imprese non abbiano scuse per non assumere. Quindi fare contratti più semplici, meno opzioni, perché sono troppe, no? Cioè, non è possibile che ogni attività ci siano tre, perché poi per la scuola di musica un altro contratto che poteva essere utilizzato poteva essere la collaborazione a progetto, ma poi si apriva il grande tema dell'autonomia. Molte scuole di musica usano la collaborazione a progetto. Insomma, le opzioni sono enormi. Ad oggi la vera fortuna di tutto questo sistema, solo che anche qua posso chiedere, cioè il progetto basta. Come viene giustificato? Voglio dire, c'è un progetto annuale di far studiare musica agli studenti, non mi pare neanche coerente. Il corso, però le scuole di musica sono piene di queste situazioni. Ora non le voglio biasimare, sennò ci inondano pure le scuole di musica. Ecco, esatto. Però il problema è che dobbiamo fare lo slalom tra regole troppo burocratiche e costi eccessivi, e abbiamo il risultato, questo che dicevo prima, di questo mercato del lavoro a ribasso. Però insomma, possiamo far fare a Flavio, o possiamo suggerire di far fare alla scuola uno studio di fattibilità su un'eventuale assunzione con un part time, come ce lo ribadisce avvocato Falasca, verticale, come se fosse al lavoro due giorni a settimana praticamente. Esatto. Allora, sento, non è nulla da dire invece sul caso di Filippo da Bergamo, lettore di contatori a 25 ore al mese, ma in realtà lui se le brucia in due giorni con questo contratto a chiamata. Normalmente scandalizzato, nel senso che questo è il problema di cui parlavo, cioè c'è un tasso di elusione contrattuale che fa spavento. Lì non è un tema quasi di interpretazione, lì purtroppo io direi, ma non lo dico, di andare da un avvocato. Il problema qual è? Che se va da un avvocato, Flavio, intanto perde il lavoro, certamente, esatto, lavoro, ecco, certo. Però il problema è che voglio capire cosa questo lavoro gli serve. Non gli serve a pagarsi i contributi, perché veramente ci va, è penalizzato e basta. Comunque, magari Filippo, facciamo una cosa, senza andare dall'avvocato, intanto cominci a scriverci, se vuole ci racconti chi è l'azienda che fa questi contratti, e magari indaghiamo un po' così nel sotterraneo. Rotaporta, le faccio sentire Maria Luisa dalla Spezia, perché a quanto pare alla figlia, che si è rivolta all'Informa Giovane, le hanno detto che i voucher per poter essere retribuita sono terminati, perché ci sono delle graduatorie. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno Deborah. Sì, infatti la mia domanda era questa qua, perché volevo sapere se i comuni, le province, le regioni hanno un tetto stabilito per poi dover assegnare, e che quindi chi prima arriva prima viene, diciamo, preso in considerazione. Ma perché sua figlia è interessata ad un posto di lavoro nel settore pubblico? Anche. Ah, ecco. Però non so se questa, ecco, è una cosa che è solo legata al settore pubblico, il voucher. No, cioè lei, sua figlia potrebbe essere anche assunta come babysitter da una famiglia, e questa famiglia potrebbe retribuirla con questi che sono appunto voucher, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, sono come dei piccoli assegni. Sì, infatti quando lei è andata allo sportello in diverse occasioni, ogni volta erano stati assegnati, non ce n'erano più. E bisogna quindi poi fare tutta l'altra fila, e non so se è un discorso di, cioè, come dire, un canale. No, magari c'erano lì. Non ci sono graduatorie. Qui magari ci sono tre aziende che erano disponibili a fare assunzioni attraverso questa modalità. Rota porta, come dire, la risposta più di buon senso che mi viene è questa. Ecco, benissimo. Rota porta. Immagino che sia così, come stava dicendo lei, perché comunque sia, appunto, l'acquisto, cioè non c'è una appunto un ordinativo limitato o altre contingentazioni dell'utilizzo rispetto all'acquisto. Quindi mi sembra di capire che probabilmente magari questo ufficio placement che doveva orientare la persona verso un'occupazione, probabilmente magari erano decadute le opportunità lavorative, ma dal punto di vista dei limiti, non, rimanendo in quei limiti reddituali, non ci sono altri limitazioni. Anche nel settore pubblico si fanno delle assunzioni temporanee con la modalità di remunerazione del voucher, rota porta? Sì, la riforma del lavoro, quindi la riforma Fornero, ha aperto anche al settore pubblico l'utilizzo dei voucher. Ovviamente l'ente che accede a questo sistema di contrattuale di retribuzione deve stare nel patto nei vincoli di spesa a livello di ente, però sì, anche l'ente pubblico può utilizzare i voucher. Allora, non abbiamo tempo per sentire Roberto dalla provincia di Vicenza, io lo saluto, leggo io la sua domanda. Un contratto a progetto da 7 anni con intervalli di 2 mesi circa, questa situazione potrà cambiare grazie al pacchetto Giovannini, rota porta? Ma il pacchetto Giovannini sul contratto a progetto interviene semplicemente per andare a chiarire quali sono i vincoli che rendono il contratto, cioè che fanno girare il contratto direttamente nella forma del lavoro subordinato, quindi questo è un caso limite e sulla scorta di quello che abbiamo già detto nel corso della puntata è sicuramente un abuso, quindi non ci sono dubbi che con quelle specifiche non si sia abusato dell'utilizzo di questo contratto, sicuramente. Un'ultima domanda, in realtà ci arrivava da Simone da Prato che ci aveva chiamato, ma la leggo io, è il titolare di un'azienda di trasporti, deve lavorare la domenica, può usufruire dei voucher per prendere una persona per sostituirlo nei giorni in determinati giorni, quando lui naturalmente magari vuole stare a casa con la famiglia ma non vuole perdere il lavoro. In 10 secondi, avvocato Falasca. Ma si rispetta tutti i limiti, certo. Di tempo sì. Quindi l'importante appunto è che sia a conoscenza di questi limiti. Non ecceda, ok. Perfetto, avvocato Falasca, Alessandro Rotaporta, grazie ancora per essere stati con noi, tanto ci risentiremo presto perché qua i temi non ci mancano, ritorneremo sicuramente anche su queste tematiche poste questa mattina perché abbiamo visto che il tema della flessibilità in entrata appunto è interpretato nelle modalità più curiose anche in tutta Italia, come abbiamo visto. Dobbiamo ritornare poi come promesso sul tema dell'apprendistato, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie soprattutto a Marco Lombardo che scrive sempre delle bellissime schede, a Carmelo Lauricella in assistenza tecnica. A domani, buona giornata.